Capitolo VIII. La nascita di Atena. Secondo i Pelasgi, la dea Atena nacque presso il lago Tritonide in Libia, dove fu raccolta e nutrita da tre ninfe di quella regione che vestivano pelli di capra. Ancora fanciulla uccise incidentalmente la sua compagna di giochi Pallade, mentre si era impegnata con lei in uno scherzoso combattimento, armata di lancia e di scudo, e in segno di lutto aggiunse il nome di Pallade al proprio. Nel suo viaggio verso la Grecia, che fece passando per la via di Creta, visse dapprima nella città di Atene presso il fiume Tritone in Beozia. Platone identificò Atena, patrona di Atene, con la dea libica Neith, che apparteneva a un'epoca in cui non si onorava né si rispettava la paternità. Neith aveva un tempio a Sais, dove Solone fu trattato bene soltanto perché era ateniese. Le sacerdotesse vergini di Neith si impegnavano annualmente in un combattimento, a quanto pare per disputarsi il titolo di grande sacerdotessa. Il racconto che Apollodoro ci fa della lotta tra Atena e Pallade è una tarda versione patriarcale. Egli infatti dice che Atena, nata da Zeus e allevata dal dio fiume Tritone, uccise accidentalmente la sua sorellastra Pallade, figlia del fiume Tritone, poiché Zeus abbassò il suo scudo tra le due contendenti, mentre Pallade stava per colpire Atena per distrarne l'attenzione. Tuttavia, l'Egida, la magica sacca di pelle di capra contenente una serpe protetta dalla maschera dello Gorgone, apparteneva ad Atena molto tempo prima che Zeus si attribuisse la paternità della dea. Le ragazze libiche indossavano abitualmente grembiuli di pelle di capra e Pallade significa vergine o ragazza. Erodoto scrive: «L'abbigliamento e l'egida di Atena furono copiate dai greci che presero esempio dalle donne libiche, vestite esattamente allo stesso modo, salvo che i loro abiti sono ornati di striscioline di cuoio e non di serpenti». Le ragazze etiopiche portano ancora oggi un costume simile, ornato di conchiglie, un simbolo sessuale femminile. Erodoto aggiunge che le alte grida di trionfo Ololu, Ololu, lanciate in onore di Atena, erano di origine libica. Tritona significa la terza regina, cioè il membro più anziano della triade, la madre della fanciulla che combatté contro Pallade e che poi divenne ninfa, così come Core Persefone era la figlia di Demetra. Il vasellame ritrovato a Creta lascia supporre che i migranti libici giungessero nell'isola verso il 4000 avanti Cristo, e un gran numero di seguaci della grande dea provenienti dal delta occidentale pare si fosse rifugiato a Creta quando l'Alto e il Basso Egitto furono costretti a unirsi sotto la prima dinastia verso il 3000 avanti Cristo. La prima età minoica iniziò poco tempo dopo e la civiltà cretese si diffuse nella Tracia e nell'antica Grecia elladica. Tra gli altri personaggi mitologici che portarono il nome di Pallade, vi fu il titano che sposò il fiume Stige e generò in lei Zelo, Zelo, Crato, Forza, Bia, Gagliardia e Niche, Vittoria. Egli fu forse un'allegoria del delfino di Pelope, sacro alla dea Luna. Omero descrive un altro Pallade come padre della Luna. Un terzo Pallade generò i 50 Pallantidi, nemici di Teseo, che pare fossero in origine delle sacerdotesse guerriere di Atena. Un quarto fu descritto come padre di Atena.